Sezione 15 di Nuove o di Barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Raffaella. Ave. In morte di Guido Piva. Or che le nevi premono, lenzuol funereo, le terre e gli animi, e della vita il fremito fioco per l'aura vernal disperdesi, tu passi, o dolce spirito, forse la nuvola ti accoglie pallida là per le solitudini del vespro, e tenue teco dileguasi. Noi, quando ai soli tepidi un desio languido ricerca l'anime e, coi fiori che sbocciano, torna Persefone dagli occhi ceruli, noi penseremo, o tenero, a te non reduce. Sotto la candida luna d'aprile trascorrere vedrè la immagine cara, accennandone. Fine della sezione 15. Registrazione di Raffaella.